La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ed eccoci qua, ben ritrovati alla Rosa Purpurea anche in questo sabato e domenica di Ferragosto, weekend di Ferragosto che immette a Ferragosto. Siamo nel periodo, come dire, di altissima stagione delle vacanze e purtroppo di bassissima stagione del cinema, perché come abbiamo detto spesso, quella dell'estate al cinema è un po' una chimera. Qualcosa esce, qualcosa e qualcosa funziona anche. Facciamo il caso per esempio del Spider-Man Homecoming, che comunque zitto zitto, quieto quieto è arrivato a 8 milioni di incasso. Insomma, segno che materiale e terreno e mercato ce ne sarebbe, ma coraggio forse ce n'è un po' meno. Una puntata in cui ce ne occuperemo subito di questo tema dell'estate cinematografica, ma ci occuperemo anche del Festival di Locarno che volge al termine e con ospite un attore che ha portato un film italiano, si intitola Easy, ed è un film che ha avuto un grandissimo successo e ci fa molto molto piacere per questo attore, Nick Nocella, lanciato da Pupi Avati. E poi tutto il cinema che c'è in sala, perché incredibilmente questa settimana escono 4 film, settimana scorsa erano 2, la settimana prossima saranno 1 e invece questa settimana ce ne sono 4, come sempre con la logica dell'estate. Qualcosa è un recupero, qualcosa è un'uscita tecnica, però per esempio La Torre Nera e Monolith hanno comunque qualcosa da dire agli appassionati. Insomma, menù sempre molto ricco, giocheremo insieme come sempre con il nostro DVD game, non vi faremo mancare le segnalazioni per i film in televisione nel finale della nostra trasmissione. Allora, cominciamo però a occuparci dell'estate al cinema. Come dicevamo, settimana scorsa 2 film in sala, 2 horror, Angoscia e Annabelle 2. Praticamente Annabelle 2 sta ottenendo tra l'altro un buon successo in sala, considerati le cifre di questo periodo, l'altro è praticamente desaparecido. Dopodiché questa settimana c'è questo exploit da 4 film: Casa Casino, Diario di una schiappa, La Torre Nera e Monolith. La settimana prossima uno solo, è un titolo grosso, Atomica Bionda, è uno dei titoli più annunciati di questo inizio di stagione, ma è uno solo. E poi il 24 agosto diventano 5, il 31 agosto diventano 8, a settembre diventeranno una valanga e faranno fatica a stare in sala. È un tema, quello dell'estate cinematografica, che da anni anima le situazioni nelle quali gli esercenti si incontrano con i distributori, eccetera, ma non se ne viene a capo. Noi ne vogliamo parlare con Domenico Di Noia, presidente della FICE, della Federazione Italiana del Cinema d'Essai, che è in collegamento con noi. Ciao Domenico. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Allora, tu hai fatto in questa settimana un comunicato molto duro su questa situazione. Dici che questa è una delle peggiori estati di sempre dal punto di vista cinematografico. Non c'erano competitor che fossero mondiali, europei, olimpiadi, e ciò nonostante non è arrivato il prodotto nelle sale. Invece di provare a rischiare, a scommettere sull'estate, cosa che, come dicevamo prima, qualche risultato lo può sempre dare, si è preferito ammassarsi sull'autunno e magari, come dire, eliminarsi l'un con l'altro. Questa pervicacia del nostro sistema cinematografico a cosa è dovuta? Ma sostanzialmente è dovuto a una mancanza di strategie da parte delle distribuzioni che da sempre considerano il periodo che va da metà maggio fino a metà agosto come un periodo i film non vengono messi in distribuzione e questo è una cosa tutta italiana, che rovina il mercato cinematografico italiano, perché appunto porta poi i film a uscire tutti contemporaneamente, e non solo, ma porta il pubblico a non avere film per tanti mesi. C'è anche un tema, Domenico, il fatto che molte sale, sempre più sale, quelle poche sale dei centri cittadini che ormai sono rimaste, monosale eccetera, addirittura a questo punto espongono il cartello chiuso per ferie a un certo punto. E questo ultimamente è un gatto che si morde la coda, no? Perché la sala chiude, la gente, il prodotto ce n'è poco, la sala chiude, la gente va, vede la sala chiusa, e chiaramente ciò che rimane aperto sono solo i multiplex, che hanno una, come dire, una logica industriale diversa, e questo chiaramente sì, anche loro senza film, cioè avranno giusto un film o due. Infatti molte sale vengono chiuse anche nei multiplex, ne rimangono aperte solo alcune, la roba che non c'è proprio assolutamente film. A Milano mai come quest'anno i cinema sono chiusi, cioè, la stragrande maggioranza dei chiusi sono chiusi, tranne alcuni coraggiosissimi esercenti di monosale Certo, che cercano il loro pubblico con grande, con sì, grande però coraggio. Con film, però con film usciti 15-20 settimane fa, cioè questo è il, quindi con niente film nuovi, ma proponendo dei film. Ecco, ma allora però facciamo la fatidica domanda, Domenico Di Noia, presidente della FICE, di chi è la colpa? Cioè qualcuno sarà l'iniziatore di questa catena perversa che priva le sale delle pellicole? Non c'è dubbio che sono le distribuzioni che volta per volta hanno accampato scuse visibili, da una volta il caldo, una volta i mondiali di calcio, una volta gli europei, una volta le sale che non avevano l'aria condizionata. Stiamo parlando di perché questo discorso è iniziato da tanto tempo, quindi stiamo parlando di 25-30 anni fa. Appunto oggi le sale sono tutte modernizzate, ci sono i multiplex, ci sono le monosale di città che sono super attrezzate, però lo stesso non, il sistema non è cambiato. Senti, ecco, come proiezione, Domenico, alla fine di quest'anno è quindi prevedibile un ulteriore calo rispetto ai biglietti staccati l'anno scorso, che già erano in calo rispetto all'anno prima? No, il mio grido d'allarme nasce dal fatto che i 4 mesi estivi dello scorso anno sono stati veramente terribili dal punto di vista delle presenze cinematografiche. Ebbene, quest'anno siamo riusciti a fare peggio dell'anno scorso, quindi almeno un 20-25% in meno dell'anno scorso. Vuol dire che alla fine dell'anno noi ci troveremo abbondantemente sotto i 100 milioni di spettatori che diventa di nuovo un minimo. Certo, che sono sempre stati la linea di galleggiamento, insomma. Assolutamente, oggi sono assolutamente insufficienti per mantenere in piedi in modo sano le sale cinematografiche. Certo, il sistema cinema tutto. E comunque in classifica, lo ripeto, un film come Spider-Man Uncoming ha superato gli 8 milioni, The War, il pianeta delle scimmie sta comunque andando piuttosto bene, Annabelle 2, per dirti, che era uno dei due film usciti la settimana scorsa, dalla sua uscita è costantemente primo in classifica, e quindi è probabilmente un film che sta incassando di più adesso durante l'estate di quanto avrebbe fatto in autunno. E questo a dire che appunto il mercato c'è, poi la gente ovviamente va a vedere quello che c'è, non può vedere i film che non ci sono, e quindi insomma speriamo che sia l'ultima volta, insomma, che dobbiamo denunciare questo problema della mancanza di film, di nuovo prodotto, di prodotto di massa, di prodotto coraggioso nelle sale cinematografiche nei mesi estivi. Grazie a Domenico Di Noia, presidente della FICE, Federazione Italiana del Cinema d'Essè, e ci risentiamo in futuro. Grazie ancora. E questo insomma era il tema con cui abbiamo voluto aprire la trasmissione, perché è Ferragosto, i cinema ci sono, molti sono aperti, ma appunto quello che latita un po' è la produzione, e in effetti se si guarda la classifica del box office è praticamente la stessa da 2-3 settimane, il che ci fa capire un po' come vanno le cose. Dovrebbe essere già in collegamento con noi Boris Sollazzo. Boris! Buongiorno. Ecco, Boris Sollazzo è uno che di cinema ne ha visto tanto negli ultimi 10 giorni, perché si è beccato tutto il Festival di Locarno e, come dire, sicuramente non gli è mancato il cinema. Boris, siamo praticamente alla fine del festival e quindi, come dire, si tirano un po' anche le somme. Che Festival di Locarno è stato? Come lo possiamo archiviare? La settimana scorsa nel presentarlo abbiamo parlato di un festival smart, di un festival che ha trovato e cercato la rapidità, la velocità, l'asciuttezza. Alla fine è rimasto fra le dita impigliato anche qualche film? Beh sì, ne sono rimasti diversi impigliati. È stato un festival che secondo me, pur mantenendo la sua anima indipendente, sperimentale, è inevitabile che Partiti Domani, Open Doors, cineasti del che abbiano una carica di innovazione molto maggiore rispetto alle corrispondenti sezioni di tanti altri festival, qui anche per la composizione che c'è nella commissione di selezione, e oserei dire pure delle giurie che poi vanno a giudicare, c'è sempre una tendenza a raccontare un cinema diverso, a cercare una grammatica cinematografica diversa. E quindi insomma sicuramente c'è questo aspetto. C'è anche però un aspetto secondo me più pop, che si è visto con insomma l'entusiasmo nonostante la pioggia per la proiezione di Atomic Blonde, un film molto classico come Sparring, con Matteo Kassovitz attore, che ha commosso molti, uno dei film del concorso più amati, anche se sembra che non verrà premiato, è Lucky con David Stinton, con David Lynch attore, Giancarlo Lynch invece regista, sembrerebbe di solito il contrario, invece in questo caso a Locarno si vede anche questo, diciamo, questo rovesciamento di sensi. E quindi anche Lucky è un film americano molto diverso da quelli che siamo abituati a vedere qui, e più, insomma, non ordinario perché non lo era, ma sicuramente più popolare, e credo che in questo 70esimo forse Locarno sia riuscito attraverso anche la direzione di Carlo Chatrian e della commissione a sposare meglio tutte le anime del cinema, ad essere anche più aperto al pubblico e non solo agli appassionati, senza perdere però quell'anima estremamente sperimentale e indipendente. Quindi sono tanti, diciamo, i film che sono rimasti, penso a Scary Mother, che è un film georgiano bellissimo, che è allo stesso tempo sperimentale ma anche molto disponibile verso il pubblico. Ce ne sono assolutamente. Bene. Poi chiaramente si prendono molti rischi e in quanto tali poi ovviamente non sempre vanno a buon punto. Certamente, però di uno dei film che è rimasto sicuramente di questo festival, Easy, un viaggio facile facile, parleremo fra poco, dopo la viabilità, con l'attore protagonista Nicola Nocella. Restate con noi. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Rosa Purpurea. È una cosa facilissima, sono un paio di giorni, devi solo guidare. Non posso lavorare, sono diagnosticamente depresso. Tu non sei depresso, tu sei tossico, che è diverso. Sei sicuro che è l'uomo giusto per questa cosa? A 14 anni è diventato campione italiano di go-kart. A 17 anni si parlava di lui in ambiente di Formula 1. Perché non parte? E abbiamo sentito una clip di Easy, un viaggio facile facile. Abbiamo parlato del Festival di Locarno con Boris Sollazzo. Questo è uno dei film che ha rappresentato l'Italia in questa 70esima edizione del Festival di Locarno, un film di Andrea Magnani con Barbara Boucher, Libero De Rienzo e Nick Nocella, protagonista assoluto nei panni di Isidoro, Easy appunto, il protagonista del film. È in collegamento con noi. Ciao Nicola, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, ciao a tutti i tuoi amici della Rosa Purpurea, sono molto felice di essere con voi, davvero. E siamo felici anche noi, sai, perché questo film ci ha fatto simpatia dall'inizio, perché vedere la tua foto che trascini una bara per le nevi dell'Ucraina, insomma, faceva abbastanza specie. E devo dire che so che il film ha avuto un grande abbraccio, un grande successo ed è entrato nel cuore del pubblico di Locarno. Sì, cioè, sai, sono quelle cose che è difficile che dica io, insomma, non dovrei dirle io, però alla proiezione dell'8 agosto, che era la prima proiezione mondiale in assoluto, c'erano quasi 3.000 persone a vedere il film, e devo dirti, Franco, è stata un'emozione incredibile, perché poi quando è partito l'applauso sembrava una marea, che cioè la risacca di una marea oceanica sulla sabbia, perché credo che difficilmente mi ricapiterà di vedere un film con altre 3.000 persone e che in quel film ci sono io dall'inizio alla fine. Il pubblico di Locarno era felicissimo dopo la visione, anche molti suoi colleghi, quindi sì, sono molto emozionato nel parlarti di questo film, ma tu lo sai. Senti, la storia di questo Isidoro, 35 anni, vagamente, esatto. Direi vagamente sovrappeso, cioè, così. Ma guarda, non gli sono bastati i miei 120 kg a Magnani, me ne ha fatti prendere altri 20. Cioè hai dovuto mangiare, questa è una tortura dolcissima. Ma guarda, ma prenderli è stato facile, riperderli non esattamente, insomma, non proprio. E comunque, appunto, questo personaggio depresso è lì, PlayStation, divano, eccetera, ma a un certo punto il fratello, come abbiamo sentito nella clip, gli chiede di riportare a casa questo operaio che è morto per un incidente sul lavoro, e questa bara va portata appunto fino in Ucraina, un viaggio che chiaramente la personalità di Isidoro, detto Easy, un po' cambierà. Come ti sei, certo, come dire, intanto come ti sei trovato dentro questo film e come ti sei calato dentro questo personaggio? Beh, mi ci sono trovato perché Andrea mi ha chiamato quasi 5 anni fa per fare questo film, aveva scritto questo film per me, nel senso che aveva visto una sequenza del figlio più piccolo, che è un film, insomma, il primo film di Avati che ho fatto io, che mi ha dato popolarità, e dopo aver visto quel film aveva pensato che io fossi perfetto per fare questo ruolo, solo che aveva visto in quel film la sequenza in cui io sono di spalle e aveva detto ok, è perfetto per fare Isidoro. E niente, Andrea mi ha chiamato 5 anni fa e poi sono successe tante cose, perché il film è ambientato completamente in Ucraina, quindi noi insomma c'è stata la guerra, come sai, e il film si è fermato tante volte. Come mi sono calato nel personaggio? Intanto prendendo altri 20 kg, che credo siano già una cosa importante. E poi Isidoro è un ex campione di go-kart, ha vinto 9 gare di fila, è un ex campione europeo, e si ritrova poi a fermarsi nell'ultimo rettilineo. E da quel punto in poi la sua vita cambia drasticamente in peggio, perché appunto diventa sempre più grasso, sempre più dedito agli psicofarmaci, finché non arriva suo fratello che gli cambia la vita per sempre facendolo andare in Ucraina. E deve accompagnare questo Taras a casa, Franco, e come sai, insomma, tutti noi abbiamo un Taras da portare a casa. Tante volte siamo noi stessi il Taras da portare a casa. Beh, no? Sì, sai, infatti non è un Taras, cioè il Taras, che poi appunto è l'uomo nella bara, purtroppo, che è il mio complice, il mio coprotagonista per tutto il film, e quindi vuol dire che non andate a vedere un film con molti dialoghi, perché insomma, se quello che mi deve rispondere non può perché è morto, è difficile che insomma ci si possa dire molte parole. E ciononostante però, Nick, ciononostante però è commedia. È una commedia, infatti a Locarno è successo questo: per i primi 50 minuti il pubblico ha riso tantissimo, poi da un certo punto in poi hanno capito che cosa stava succedendo, cosa che succede, è successo anche a me la prima volta che ho visto il film, e si ride un po' meno nella seconda parte, ma si pensa, si riflette e soprattutto si capisce appunto che questo viaggio che compie Isi non cambia soltanto Isi, ma ci costringe a pensare ai nostri viaggi, perché poi sai, Franco, la metafora del road movie è sempre la stessa, no? Cioè si parte e il viaggio letterale diventa anche un viaggio emotivo del protagonista. Per il pubblico, secondo me, al pubblico succede la stessa cosa, cioè si rende conto a un certo punto che ognuno di noi ha un Taras da portare a casa, che ne so, finire l'università piuttosto che sposare, non lo so, sai, ognuno ha un super compito e ti costringe a metterti davanti a te spettatore al tuo di super compito e a pensare. Ha un finale apertissimo, non faccio spoiler ma vi dico questo, quindi non ha nessuna tesi da portare avanti se non quella appunto di cercare in tutti i modi di finire questo viaggio. Оце ваш автомобіль? È la mia macchina. Точно ваш? Sì, è la mia macchina. Це ти? А як ти збираєшся платити? Come pagare? Sorry. 1200 euro. О, prigione. Prigione. Чекай, ти в порядку? Що з тобою? Ho diritto a fare una telefonata. Nicola, un'ultima cosa, com'è stato lavorare nelle terre dell'Oriente europeo? C'è questo senso di Europa a due velocità? Sì. Cioè, soprattutto perché appunto un po' il freddo, era un inverno ucraino abbastanza rigido, e poi insomma, guardando il film si vedono queste lande disperatamente desolate, questi spazi apertissimi, queste cose che insomma a cui noi non siamo più neanche abituati, perché molte cose nei Carpazi erano mie nel retaggio dei racconti di mio nonno, insomma, perché perché c'è un'altra priorità in questo momento in alcune parti dei Carpazi o dell'est Europa. E poi dico una cosa insomma anche molto seria: noi non abbiamo mai sentito l'urgenza che ci fosse una guerra attorno a noi, ma c'era, e quindi era una cosa insomma che non potevi dimenticarti. E poi, se posso dirti solo una cosa molto veloce, parlare, recitare con tutti questi attori bravissimi che non parlavano assolutamente la mia lingua è stato fantastico, perché era completamente diegetico per il personaggio, fuori dal mondo e fuori dal contesto in cui c'era, e ti devo dire mi ha aiutato moltissimo. Anche l'Est Europa è uno dei protagonisti del film e credo che sia uno dei protagonisti più bravi di questo film. E allora, grazie a Nicola Nocella, protagonista di Isi, Un viaggio facile facile, dal 31 agosto nelle sale cinematografiche italiane, quindi insomma affronterà anche, e sono convinto, con successo il nostro pubblico. C'è solo Dunkirk che è il nostro competitor. Ma sì, ma cosa vuoi che sia, tanto poi dopo i film di Venezia escono dopo, non preoccuparti. Grazie Nick, ciao, ci Franco, risentiamo, grazie. ciao. e Nicola Nocella con noi, come sempre, con grande simpatia. Ma va davvero, guardate che questo film è il film che ci rivela definitivamente, consacra un nuovo protagonista, un nuovo grande protagonista del cinema italiano. E allora, giochiamo insieme. Siamo arrivati alla prima traccia del nostro film misterioso. Nemmeno Ferragosto vi lasciamo soli con il nostro game. Ascoltiamo questi primi secondi. Non è mandarla via dal corpo il problema, è mandarla via dalla testa. Sei un tossico. Credi che non l'ho già sentito dire 100.000 volte? Allora resta dipendente da qualcos'altro. Devi incanalare l'energia. Tu come l'hai incanalata? Andando via. E allora, questa è la prima clip del nostro film misterioso di oggi, un film di questa stagione che si è appena conclusa. Se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci titolo e vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it e provate a vincere una delle due copie che vi aspettano di questo film, del quale noi sveleremo l'identità proprio alla fine della nostra trasmissione. E allora torniamo all'attualità cinematografica, anzi passiamo all'attualità cinematografica in Italia, torniamo invece a Boris Sollazzo in collegamento sempre da Locarno per chiacchierare un po' del primo di questi film, parliamo di family movie in questo senso. È diventata una saga editoriale di grandissimo successo in tutto il mondo, che si è portata dietro una saga cinematografica di cui siamo all'ennesimo episodio. Questa volta si intitola Diario di una schiappa, portatemi a casa. Che cosa ne dite di un viaggetto a Effley tutti insieme? Greg, Roderick, Manny. Che te ne pare? Hai vinto il gran premio! Mamma e papà. Prima regola di un viaggio, l'autista è il DJ. Boris, Diario di una schiappa, mi viene in mente appunto che siamo ormai, come dicevo, all'ennesimo episodio di questa saga che almeno a livello editoriale ha avuto molto gradimento del pubblico, anche della critica, di chi si occupa della pedagogia dei ragazzini, perché è un libro, sono libri, anche film incoraggianti rispetto appunto a chi tutti noi del resto ci siamo sentiti, ci sentiamo, e a maggior ragione nell'età dell'adolescenza, della crescita, un po' schiappe, no? in certi momenti. A livello cinematografico fa abbastanza sorpresa vedere un film di questo tipo, un family movie, in questo momento della stagione. Con quali risultati? Ma alla fine buoni, diciamo, nel senso che parliamo secondo me di una saga che all'inizio faceva fatica a entrare nella testa degli appassionati di cinema e del pubblico, perché appunto era, come dicevi tu, un prodotto editoriale estremamente diffuso, ma anche settoriale per quanto riguarda, diciamo, l'anagrafe di chi lo leggeva o comunque di chi lo amava. Alla fine il fatto che le produzioni cinematografiche abbiano puntato pesantemente sul Diario di una schiappa, e siamo in presenza, come dicevi tu, dell'ennesimo capitolo, seppur in un periodo dell'anno piuttosto curioso, insomma, dove forse è anche più difficile per il suo pubblico andare al cinema, noi ci ritroviamo in un universo che ormai conosciamo, con Greg che ormai conosciamo e che ha anche imparato a crescere guardando se stesso, nel senso che a differenza di un lungometraggio puramente funzionale come erano gli altri, cioè sostanzialmente derivativi dai libri, il mondo che era stato creato dai libri stessi e da quello che ci si aspettava per Greg, qui nell'ambito di una commedia molto semplice, nell'ambito di un racconto di formazione estremamente lineare, c'è qualcosa in più, che è il racconto del gap generazionale, cioè di quello che un millennial, se vogliamo chiamarlo così, anche se è molto piccolo come millennial, si può trovare a vivere con gli adulti in questo momento. C'è un gap molto più alto di quello che potevamo avere noi con i nostri genitori, perché c'è la tecnologia, la musica, l'intrattenimento che è cambiato completamente e che quindi o ha investito gli adulti a scoppio ritardato, oppure quegli adulti non lo conoscono affatto. È una commedia, tra virgolette, degli equivoci e dei contrari estremamente semplice, come lo sono sempre state quelle di Diario di una schiappa, ma alla fine porta a casa il risultato, perché c'è una fluidità, secondo me, di scrittura maggiore rispetto al passato, cioè non sembra più un film a gag, ma comunque, pur nella sua facilità di racconto, c'è un'unità di visione, perché devo dire anche la costruzione dei dialoghi porta a qualche risata in più, qualche sorriso in più. È allora, chiaramente un film per un target preciso, e quel target preciso rimarrà soddisfatto, ma in fondo, insomma, chiamandosi Diario di una scappa, non è che prevedesse un pubblico di massa o un pubblico trasversale. Eh no, infatti ci portiamo a casa questo risultato per una proposta estiva, leggera, ma comunque con contenuti e con significati. E allora a questo punto diamo la linea alla regia, fra poco torniamo e affrontiamo quello che è sicuramente il film più atteso di questa settimana e di queste uscite forse estive, La Torre Nera, con dietro il grande alone di Stephen King. La Rosa Purpurea. La torre sorge tra la luce e l'oscurità. Per generazioni i pistoleri sono stati i cavalieri che la proteggevano. Io sono l'unico rimasto. La torre cadrà. Abituatevi alla carneficina. Ora la guerra è giunta sulla terra. La Torre Nera di Nicolai Arcel con Idris Elba, Matthew McConaughey, tra gli altri film che aveva una grande attesa alle spalle, perché appunto anche qui parliamo di saga letteraria firmata Stephen King, una delle più immaginifiche della produzione sterminata e ciclopica del maestro del brivido americano, che arrivava finalmente in sala. E però dico e però perché, così sentendo il mood, pare che non sia stata una felicissima trasposizione cinematografica questa della Torre Nera. Ne abbiamo parlato settimana scorsa con Mario Gomarasca, direttore di Notturno, la rivista specializzata nel cinema di genere italiano, perché chiaramente mettere dentro in un film di una durata, tra l'altro, diciamo normale, cioè 95 minuti, neanche esagerata, tutto quello che c'era dentro questa saga libraria, sarebbe stato forse un po' un rischio, come mettere tutto Il Signore degli Anelli in un film solo. Infatti ne hanno fatti tre e anche piuttosto lunghi. Allora noi ci ripigliamo Mario Gomarasca, e come avevamo fatto settimana scorsa, avevamo lanciato l'amo, lo ritiriamo su e chiediamo al direttore di Notturno: allora, alla fine delude davvero questo La Torre Nera, o c'è qualcosa da salvare? Ciao Maglio. Ciao a tutti. Guarda Franco, purtroppo La Torre Nera delude, e delude, ma inevitabilmente avrebbe deluso, perché l'impresa era veramente titanica. Beh, in realtà non hanno voluto giustamente mettere tutti gli 8 romanzi che compongono la saga della Torre Nera all'interno di un unico film, e questa sicuramente è stata la fortuna. Si sono concentrati soprattutto sul primo e parte del secondo. In realtà l'hanno un po' reinventato, perché hanno ambientato le azioni di Roland più nel nostro mondo che nel mondo parallelo nel quale viveva il pistolero. Però era impossibile, cioè, secondo me l'idea originale che aveva avuto J.J. Abrams, che Stephen King aveva sposato, ovvero quella di fare una serie di film legate tra di loro da una miniserie televisiva che avrebbe collegato gli eventi tra un film e l'altro, poteva forse raggiungere quell'ampio respiro che aveva la saga. Purtroppo il tentativo di fare questo film e di trasformarlo in una sorta di Matrix moderno non è stata, secondo me, delle più originali o delle più avvincenti. Diciamo subito che comunque c'era l'idea di fare comunque gli altri film, di proseguire il ciclo. Avrebbero lasciato tutto però agli incassi del film in sala, quello che avrebbero portato il pubblico. Se il pubblico avrebbe decretato il successo del film, sarebbero arrivati gli altri film. Quindi stiamo a vedere. Per ora mi sembra che comunque, al di là dei miei pareri di tutti i fan di King tra forum, blog, Facebook, abbiano abbastanza massacrato il film. Non penso che ci sarà un ciclo come quello del Signore degli Anelli, e comunque non penso che questo fosse il modo di trattare un'opera così mastodontica come quella della Torre Nera. Chiunque cammini con te muore. Non più ormai. Io non sparo con la mano, io sparo con la mente. Io non uccido con la pistola, io uccido con il cuore. C'è anche Boris Sollazzo, sempre in collegamento con noi. Se volete, Maglio e Boris, salutatevi, eh? Noi siamo un pubblico aperto. Ciao Boris! Ciao Maglio! Eccoli qua, uno da una parte e uno dall'altra dell'Europa. Ma detto questo, Boris, voglio chiederti, il difetto della Torre Nera sta forse, mi sembra di capire, nel fatto di una trasposizione troppo chiaro, coi chiari e gli oscuri, cioè troppo o è bianco o è nero, troppo o è bene o è male, sono saltate le sfumature dell'opera di Stephen King? Ma King lo trasporti al cinema solo se lo capisci, mi sembra che la storia del cinema lo dimostri. Qui non lo tradiscono, però qui lo leggono superficialmente, tentano uno esperimento, come diceva Maglio, a metà tra il primo film di una saga e semplicemente un riassunto fatto male da chi ha letto solo una parte di tutta la saga. Trovo che al di là poi della durata, 95 minuti, che rendeva veramente impossibile qualsiasi tipo di reale adesione all'opera intera, ci sia proprio una distrazione, una sciatteria nel portare avanti il racconto, anche un disinteresse verso il racconto stesso, che poi non ti dà quella forza, quell'empatia che ti creava la Torre Nera nella lettura. Quindi mi sembra veramente che sia stato fatto, come si dice, con la mano sinistra e con poca passione, e forse questo è il difetto maggiore, nel senso che sembrano non crederci neanche loro. E allora, sperando e aspettando ovviamente la reazione del pubblico, di cui vi diremo la prossima settimana, io saluto Maglio Gomarasca, direttore di Notturno. Ciao Maglio, grazie di essere stato con noi. Ciao Franco, grazie a te. E noi invece... Ciao Boris. Oh. Eccoci, i saluti si sono chiusi perfettamente. A questo punto noi possiamo andare avanti con la seconda traccia del film misterioso di oggi. C'è il tipo del servizio in camera che entra dalla stanza e trova Georgie Best sdraiato sul letto con due modelle di Playboy, champagne, qualche pista di neve. Dice: quando è andato tutto storto? E allora qui avete sentito un riferimento a un grandissimo calciatore, George Best, il che vi dà magari anche un indirizzo geografico del film di cui stiamo parlando. La Rosa Purpurea, @radio24.it, il vostro nome, cognome, indirizzo, il titolo di questo film per provare a vincere una delle due copie in un video che vi aspettano e che fra poco vi sveleremo. Andiamo avanti con la prossima proposta in sala in questo fine settimana. Qui è una storia, come dire, minimale, di quelle che si svolgono in unità di luogo, in questo caso molto molto stretta, perché addirittura un'automobile. Si intitola Monolith. Chiamata in entrata. Guarda un po' chi c'è. Ciao campione. Papà. Com'è la macchina nuova? La macchina è fantastica, solo che non mi aspettavo un'auto da combattimento super blindata. Rilassati e goditi il paesaggio, Sandra. Ma che succede? E allora, abbiamo visto film ambientati in una fossa di un cimitero, in una bara, in un carro armato, l'unità di luogo, in una stanza magari, ricorderete, in un'unità di luogo claustrofobica è uno dei come dire, dei mantra del cinema, e in questo caso diventa l'auto, però dove c'è un dentro e un fuori. È la storia di Sandra, una donna che ha un figlio molto piccolo, è stata in passato una pop star. Il marito le ha comprato questa macchina super accessorata, un mega SUV molto cattivo nell'aspetto, molto aggressivo. La donna ha dei sospettini sul tradimento del marito, parte per Los Angeles con questa macchina e a un certo punto però nel deserto dello Utah esce a controllare danni eventuali dopo aver investito un cervo e si ritrova chiusa fuori dall'auto col bambino chiuso dentro l'auto, e tutto questo mentre l'auto non si apre. Questo è un po' l'inizio del film, e come si svilupperà lo potrete vedere al cinema, diretto da Ivan Silvestrini, da un soggetto di Roberto Recchioni, quindi c'è dentro molto anche del grande fumetto italiano, infatti c'è la Sergio Bonelli editore fra i produttori. E devo dire, Boris, l'idea è molto molto intrigante. Il film com'è? Anche, ha dei difetti. Intanto diciamo che Ivan Silvestrini ha di sicuro un problema con le macchine, perché anche Tonight, che vedeva Matilde Giovi, insomma, girare per tutta Roma, era tutto ambientato in una macchina, quindi probabilmente abbiamo un nuovo genere e un nuovo regista che porterà avanti questo genere, che è il car movie, che non è nemmeno un on the road, ma spesso parla di personaggi che stanno in macchine ferme. Fuori dalla battuta, il film è intrigante, ha i suoi difetti, perché chiaramente quando tu facevi l'esempio dei film ambientati in una bara, no? Come Boyd, come tanti altri film, quando tu ti imponi una sfida così estrema come quella di raccontare una storia concentrata su un oggetto fermo e sulla presenza attorno a questo oggetto, dentro questo oggetto, di una persona, di un pericolo, di un rischio, di una storia, evidentemente ti poni una sfida altissima e molto difficile da sostenere, e questo chiaramente secondo me porta a delle discontinuità di tensione, alle discontinuità di narrazione che possono essere giustificate e che ogni tanto insomma provocano qualche passaggio vuoto del film. E anche perché secondo me Silvestrini ha una mano troppo gentile, troppo alla Tonight nel raccontare una storia così, che invece ha bisogno forse di un cattivo regista di genere, pur cavandosela. Il soggetto è geniale, il soggetto di Roberto Recchioni, che è il curatore di Dylan Dog, il creatore di Orfani, il creatore di John Doe, è geniale perché è semplice, ma non ci aveva ancora pensato nessuno, cioè l'ossessione di una tecnologia che diventa sostitutiva e che sostanzialmente a un certo punto all'AL decide per l'essere umano, che ne è schiavo, che ne è vittima e non ne è più padrone. E è interessante anche il fatto che il salvataggio non debba prevedere un viaggio, un arrivo, un countdown, ma il countdown sia vissuto da qualcuno inerme che sia all'interno di questo oggetto. Evidentemente il film subisce il fatto che non sempre la protagonista è all'altezza, quindi il film con i suoi difetti, ma secondo me interessante, che potrà piacere a una larga fetta di pubblico proprio per la sua capacità di raccontare qualcosa a cui non siamo abituati. Poi è evidente che abbiamo perso talmente tanti anni nel cinema di genere che adesso dobbiamo cominciare a recuperare, e questo è un buon primo passo. Rilassati e goditi il paesaggio, Sandra. Ma che succede? Nella viabilità, fra poco torniamo, ancora un film fra quelli usciti in sala, Casa Casinò, e poi tutto il cinema da vedere nella propria di casa, fra poco. La Rosa Purpurea. Ancora insieme La Rosa Purpurea, fra poco il cinema da vedere in casa, e sveleremo il nostro film misterioso di oggi, per cui restate con noi. Prima però c'è un'altra proposta che arriva in sala in questo fine settimana, una commedia americana, tra l'altro con Will Ferrell e Amy Poehler nel cast, diretto da Andrew J. Cohen. Il film si intitola Casa Casinò. When I became a dad, I made a choice to support my daughter's dreams. You don't have enough money. It says right here we have $401,000. La clip è in originale perché non è stato reso disponibile un trailer italiano, ma insomma abbiamo voluto portare dentro lo stesso nel sound del film. Titolo originale è semplicemente The House, la storia ideata dagli sceneggiatori di Cattivi Vicini. Vi ricorderete quei film che raccontavano di questi ragazzi che arrivano nella casa di fianco e praticamente mettono tutto a soqquadro, con Will Ferrell, appunto, uno dei più, come dire, affermati commediari americani, che insieme alla moglie sperpera il fondo del college della figlia, non hanno più soldi, e allora si uniscono appunto ai vicini e aprono un casinò illegale nel loro quartiere. Una commedia americana proprio di quel genere, che spinge molto sul pedale dell'acceleratore. Boris, questo The House esce un po' alla chetichella, diciamo così, merita comunque un'occhiata? Ma forse sì, solo che veramente quando vedi un film come The House fai fatica a capire il motivo per cui certi film vengono presi e maltrattati in questa maniera. Da una parte perché vengono presi, nel senso che è un film veramente tanto americano, è americano nella comicità, Will Ferrell è bravissimo, però chiaramente lavora e recita per far ridere gli americani. È americano nell'argomento perché per quanto costino tanto le università italiane, nessuna famiglia riuscirebbe a sperperare tutti i soldi che servono per andare in un'università americana, e quindi noi non abbiamo comunque culturalmente la possibilità di comprendere del tutto il disastro che fa questa coppia, dove ovviamente c'è il gioco in cui l'unica responsabile è la giovane figlia. Non riusciamo a capire nemmeno quegli stratagemmi finanziari che vedono questa coppia vittima, in cui sostanzialmente sono stati convinti che di non aver sperperato il fondo fino a non averlo sperperato, e infine non riusciamo nemmeno a capire il click culturale che li porta a fare quello che fanno, cioè a trasformare la propria casa in un casino illegale, perché sono tutte stratagemmi, tutte idee che nascono da un preciso modo di essere americani, no? Di cogliere l'opportunità, di cercare di fare la cosa giusta anche nel modo sbagliato. Il film in sé è una commedia anche simpatica, Will Ferrell è uno che tiene lo schermo senza alcun problema, i suoi compagni di set qui sono estremamente funzionali alla storia e divertono anche. Il problema è che, come succedeva spesso con i film di Adam Sandler, noi rischiamo di non ridere comunque, perché rischiamo di non entrare mai nella storia e di non sentirla mai. Se poi la distribuzione italiana pensa bene di non tradurre il trailer, di non sostenere l'uscita e di metterla ad agosto, io faccio veramente fatica a capire il senso di un'uscita come quella di Casa Casinò, non per il suo valore in se stesso, ma per l'efficacia che può avere in un mercato come quello italiano. E tra l'altro alle spalle questo regista ha appunto come sceneggiatore i successi di Cattivi vicini 1 e 2 con Zac Efron, lo ricorderete, lo citavo prima, ma anche di Mike and Dave, Un matrimonio da sballo. È uno sceneggiatore che adesso si passa anche alla regia, ma come dire, molto capace in questo genere, che è questa commedia un po' sporcacciona, un po' esagerata americana, che però è un genere che di solito funziona molto. Detto questo, sono i grandi misteri della distribuzione, ne abbiamo parlato in apertura di trasmissione, ne parliamo anche adesso quasi in chiusura. Grazie a Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora abbiamo parlato appunto dei quattro film che arrivano in sala in questo weekend che ci mette sul Ferragosto, e a questo punto è il momento di provare a dare un'occhiata a quello che invece si può vedere in casa, così magari uno un filmettino in queste giornate anche molto calde se lo sceglie. Cominciamo con il risentire la clip del game con cui avevamo giocato 7 giorni fa. Sta passando adesso, passo. Ah, passi tu. Io non passo, io sto qui, passo. Passo o non passo? Cosa dici che... Dimmelo, passo, passo. Passa, passo. Se posso, passo. Con questo calembour vi avevamo introdotto al film della settimana scorsa, Natale a Londra. Avevamo giocato con la commedia popolare italiana, con il cinepanettone in un certo senso. A indovinarlo per primi sono stati Lorenzo Selmi di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna, e Giorgio Maschietto di San Donà di Piave, provincia di Venezia. Saranno loro due a ricevere il DVD di Natale a Londra, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Wolfgang De Biasi porta avanti il cinepanettone surreal, demenziale, parodico e molto lunare di Lillo e Greg. Il film sembra mescolare il cinema dei gangster con i Minions, narrando di due fratelli che varcano la Manica e rubano i cagnolini della regina per riscattare il padre dalla morsa dell'arcinemico Equitalia. Insomma, vecchia e nuova generazione di comici a braccetto per una trama che cerca di combinare commercio e un minimo di ricerca sul comico. La parola d'ordine, la popolarità, si gioca a livello delle mode TV e della politica da bar, e su tutto questo decisamente svetta l'umorismo lessicale di un grande mai troppo riconosciuto, ovvero Nino Frassica. Il DVD ha diversi extra, backstage, uno speciale e le ricette del cast, trailer, teaser e TV spot. Questo per quel che concerne il game della scorsa settimana. Diamo un'occhiata invece alle segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana, partendo proprio dal giorno di Ferragosto. Dopo Grigliate, Mare, Castelli di Sabbia e Fette d'Anguria, la sera c'è Priscilla, la regina del deserto, su Rai Movie alle 22.55, quindi siete rientrati praticamente tutti ed è sempre un film che è un grandissimo piacere vedere. Sì, la storia di due travestiti e un transessuale in viaggio con Priscilla, che è il nome dell'autobus su cui si spostano, e si spostano verso Alice Springs, che sta nel centro del deserto australiano, dove devono esibirsi in uno spettacolo di cabaret. Il tutto è un pretesto per un'esibizione di kitsch sfrenato e umanità struggente, per un film che è diventato un cult istantaneo e non solo nella comunità LGBT. La colonna sonora e i costumi camp, questa odissea australiana tra bifolchi minacciosi, scatologici, feticci degli Abba, è contornata da scambi di battute memorabili che non sono assolutamente né politicamente né sociologicamente corrette. Soprattutto voglio ricordare sotto i lustrini delle paillette di Bernadette il personaggio di una fantastica Terence Stamp in drag, che è un personaggio annoiato del lavoro come un cinquantenne intrappolato in ufficio, ma scopre di sapersi ancora meravigliare del figlio. Appuntamento con Priscilla, quindi Rai Movie 22.55 il giorno di Ferragosto. Giovedì 17 agosto invece andiamo sicuramente su un altro clima con questa pellicola del 94 di John Waters che si intitola La signora ammazza tutti, in onda sul canale 9 alle 21.15. Sì, La signora ammazza tutti, ovvero Serial Mom, la mamma assassina che, esasperata dai pettegolezzi, dalle piccole prevaricazioni, dagli esagerati perbenismi del vicinato suburbano americano, comincia a sterminare letteralmente tutti coloro che disturbano lei e la sua famigliola imperfetta. Siamo negli anni 90 e John Waters, che è stato il re e rivoluzionario del cinema trash, è diventato a suo modo mainstream, ma non per questo è meno dissacratorio e perfido. Catherine Turner è l'immagine della puntigliosa alla perfezione piccolo borghese, persino quando massacra la vicina con un cosciotto d'agnello. È un film molto divertente, ma riappacificato e assolutamente non perdere. E questo era invece La signora ammazza tutti, canale 9, 21.15, giovedì 17 agosto. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Prima di salutarvi però vi dobbiamo la soluzione del game di oggi. Il film misterioso con il quale avevamo giocato era Trainspotting 2. L'avevamo detto, un film di questa stagione, un preciso indirizzo geografico. Trainspotting 2, settimana prossima comunicheremo i vincitori. Auguri per un buon Ferragosto, La Rosa Purpurea ci sarà anche sabato prossimo, come sempre, per raccontarvi tutto il cinema, poco tanto che sia, che c'è in questa stagione estiva. Un saluto da Franco D'Assisi.